Benvenuti a tutti, puntata numero 13 di NBA Week, puntata preparativa per quello che sarà il prossimo fine settimana delle stelle, quello dell'All-Stars Game di New Orleans. Complice una settimana un po' complessa per la vista del sottoscritto, considerato il già detto intervento fatto per ridurre la mia miopia, ho perso qualche giro rispetto alle partite e alla settimana NBA. Per questo ho deciso di basare la puntata principalmente sul racconto di quella che sarà, o che è, la mia top 3 a livello di edizioni dell'All-Star Game, intese come partita della domenica, almeno fra quelle che ho vissuto. Andiamo però brevemente a citare le top performance della settimana prima di addentrarci in questa singolare e personale mini classifica. Il partitone della settimana, quantomeno a livello di attesa, era quello che riguardava i Golden State Warriors in trasferta a Oklahoma City. Significava infatti il primo ritorno di Kevin Durant in quella che è stata a lungo casa sua. KD trova ad attenderlo copiosi fischi, un palasport con la sicurezza rinforzata per l'occasione e soprattutto Russell Westbrook. Quest'ultimo chiude con 47 punti, 11 rimbalzi e 8 assist e si punzecchia più volte con l'ex amico. Invece KD non si risparmia un bel faccia a faccia con Andre Robinson dopo un fallaccio subito e anche qualche parola di troppo con Enes Kanter, che non gioca ma è in borghese in panchina. Tensione altissima quindi, almeno rispetto alle medie di tensione NBA durante la regular season, che comunque non distoglie Durant dal suo obiettivo. Golden State vince 130-114 scavando un discreto parziale nel secondo quarto, chiuso con 43 punti totale di squadra. Per l'ex di turno ci sono 34 punti, un buon 12 su 21 dal campo, 3 triple e 9 rimbalzi. Gli danno comunque un bel aiuto i due Splash Brothers, che chiudono con 26 punti a testa e con 9 triple totali. Rispetto ai fischi, Kevin Durant dopo partita si mantiene piuttosto sobrio, piuttosto disinteressato, dichiarando che tutto sommato si aspettava di peggio. OKC quindi raffredda i bollenti spiriti che si erano un po' accesi in seguito anche alla convincente vittoria sui campioni in carica dei Cleveland Cavaliers con la solita super tripla doppia del solito Russell Westbrook qualche sera prima. Tra le top performance, oltre a questa partita della settimana, parliamo di quelle personali, non possiamo non citare il super Nikola Jokic del 10 febbraio, che nel prestigiosissimo palcoscenico del Madison Square Garden di New York chiude con 40 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, soprattutto con 17 su 23 dal campo. Vittoria dei suoi Denver Nuggets sui New York Knicks. I Knicks, che comunque sono insperatamente protagonisti anche del match la domenica notte, contro i piuttosto svogliati San Antonio Spurs di Kawhi Leonard, che chiude con 36 punti. Vittoria per il morale del Garden di New York con un Anthony da 25 punti, un Derrick Rose da 18 e un Kristaps Porzingis da 16. Sempre il 10 febbraio da segnalare un Anthony Davis carichissimo in vista del weekend delle stelle, che chiude con 42 punti, 13 rimbalzi nella vittoria dei Pelicans sui Timberwolves e i 40 punti del solito barbone James Harden nella vittoria dei Rockets sui Suns del sabato notte. Altro giocatore evidentemente carico in previsione della partita delle stelle alla quale è convocato è Gordon Hayward di Utah, che a febbraio sta viaggiando a quasi 30 punti di media. Andate poi a rivedervi negli highlights la schiacciata praticamente staccando la linea di tiro libero di Giannis Antetokounmpo nella sfida tra Milwaukee e Indiana. Personalmente avrei veramente esultato per la sua presenza nella gara delle schiacciate, ma mi accontenterò di vederlo nella partita della domenica visto che sarà probabilmente motivatissimo. Non dimentichiamoci inoltre il solito super DeMarcus Cousins nella notte del 14 febbraio con 40 punti, 12 rimbalzi e 8 assist per la vittoria dei Kings allo Staples Center sui Lakers. Stessa notte 41 punti anche per Andrew Wiggins di Minnesota nella sconfitta però dei suoi Timberwolves contro i Cleveland Cavaliers di un LeBron James da 25 punti, 8 rimbalzi, 14 assist, uno di questi spettacolare no look sotto le gambe proprio di Andrew Wiggins. Proseguiamo velocemente il bollettino infortuni aggiornato ad oggi. Dopo il brutto stop avvenuto a causa della rottura del legamento crociato per Zach LaVine e Minnesota Timberwolves, a lui si aggiunge anche la stagione finita per Jabari Parker dei Milwaukee Bucks, più o meno per lo stesso infortunio. Monitorato invece giorno per giorno Joel Embiid, anche se al momento si esclude la necessità di una chirurgia per problemi al ginocchio sinistro. Infine, 6 settimane di stop per Kevin Love dei Cavs, anche lui per un problema al ginocchio. Chiudiamo inoltre con qualcosa successa non in campo, ma sugli spalti, e che riguarda la leggenda dei New York Knicks Charles Oakley. Il mai non troppo tranquillo idolo del Madison Square Garden ha messo in atto un vero e proprio rodeo durante il match casalingo tra New York e i Los Angeles Clippers. Siamo nel primo quarto di gioco e vicino alla postazione dove Oakley sta gustandosi l'inizio della partita dei suoi Knicks siede anche il discusso e mai amico proprietario James Dolan. Ad un certo punto una serie di agenti della sicurezza intervengono in direzione dell'ex ala grande, che nel frattempo grida qualcosa di poco carino in direzione del nemico Dolan. A questo punto Oakley perde totalmente la testa mettendo le mani in faccia ad un agente della sicurezza prima di essere poi preso, portato via e pare arrestato dalla polizia di New York. Se Dolan ha dichiarato il suo stupore e la sua totale incredulità su come le cose possano essere tanto degenerate con Charles Oley, Oley non ha certo abbassato i toni in seguito, dichiarando di essere stato provocato senza aver fatto niente e poi di essersi difeso di conseguenza rispetto all'arrivo della sicurezza, una tesi tra l'altro appoggiata da alcuni tifosi seduti lì vicino. Questo è stato un po' il riassunto brevissimo della settimana percepita da me. Andiamo adesso invece con il conto alla rovescia del top 3 rispetto all'edizione dell'All-Star Game che personalmente ho vissuto e che ritengo le più belle che sono capitate nella storia. Andiamo al numero 3. A rivederla oggi ha un sapore di finzione che per un attimo fa storcere la bocca, ma per quello che metaforicamente ha rappresentato per tutto il mondo nello sport, non si può non citare l'All-Star Game del 1992 ad Orlando. Un nome, un soprannome ed un cognome bastano ed avanzano per descrivere questa edizione: Irving Magic Johnson. Quello che probabilmente è stato il più efficace all around di tutti i tempi, o almeno fino a quando aveva un senso e una particolarità a definire così un giocatore, quindi fino agli anni 2000. Colui che vinse un titolo da rookie giocando la partita decisiva della finale da centro per l'infortunio di Kareem Abdul-Jabbar, la mente dietro una delle pagine più entusiasmanti del gioco, quella dei Lakers dello Showtime, colui che è stato tra i più prolifici e spettacolari assist man di sempre giocando principalmente playmaker pur superando i 2 metri di altezza, l'uomo chiamato Magico si era infatti ritirato in avvio di quella stagione. Uno shock per il mondo dello sport, uno degli ambasciatori mondiali del basket costretto a gettare la spugna perché positivo al test dell'HIV. All'uscita dagli anni 80 in un contesto sociale dove il virus dell'HIV era divenuto terrificante minaccia in realtà conclamata, ai tempi in cui in Italia si passavano terribili pubblicità progresso con gli ometti circondati da un alone viola, la dimostrazione che davvero il pericolo era alla portata di tutti e di tutto il mondo fu proprio mostrata da uno degli atleti più famosi in circolazione. Com'è come non è, Magic figurava comunque, malgrado il ritiro, nelle liste dei giocatori da votare nello Starting Five e leggenda narra che il pubblico lo selezionò per un'ultima grande passerella appunto nell'avventura All-Star Game di Orlando. In realtà non sarà l'ultima partita di Magic in carriera, giocherà anche a Barcellona e alle Olimpiadi subito seguenti, nel famoso Original Dream Team. Proverà poi a rientrare la stagione seguente senza successo, vista anche l'opposizione di certi giocatori, tra i quali Karl Malone, a dimostrazione che i pregiudizi sul rischio di contagio erano ben lontani da essere superati malgrado l'esempio fisico rappresentato dal numero 32 dei Lakers. Rientrerà poi definitivamente per una mezza stagione l'anno dopo il rientro di Michael Jordan, in una versione dei Lakers piuttosto povera e senza particolari guizzi da ricordare. Fatto sta che per una notte la magia si impossessò di Orlando e quello che soprattutto gli highlights raccontano è una partita dove si percepisce la perfezione quasi raggiunta di Magic Johnson. Per la verità, a rivedere la partita per intero lo si percepisce un po' meno, soprattutto perché comunque la costruzione degli eventi in partita è un po' forzata, o risulta un po' forzata, o quantomeno tutti cercavano Magic. Magic risponde presente, chiude comunque con 25 punti, la statuetta di MVP tra le mani, una partita che Magic suggella con quella storica tripla in faccia all'amico Isaiah Thomas raccogliendo il pallone quasi con una sola mano, una edizione dello Star Game comunque passata alla storia soprattutto per il significato che potremmo definire anche politico. A mio avviso sono 3 comunque i giocatori da ricordare tra i presenti di quello storico happening a prescindere dalla grande prestazione di Magic Johnson. Il primo è Reggie Lewis, ala dei Celtics alla sua prima e unica partecipazione stroncato da un attacco cardiaco la off-season seguente. Il secondo invece era Dennis Rodman, ai tempi ai Detroit Pistons in fase irreversibilmente di declino, che catturò la bellezza ai 12 rimbalzi ma era comunque la sua seconda partecipazione, la prima era avvenuta infatti nel 1990. Comunque, dopo il 92 non è mai stato più convocato all'All-Star Game, una cosa a mio avviso scandalosa per l'importanza che il giocatore ha avuto nella storia del gioco. L'altro, il terzo, è invece Michael Adams, playmaker di Washington alla sua unica edizione, un giocatore che raramente si ricorda ma che, ad esempio, nella stagione 90-91 chiuse con la bellezza di 26.5 punti di media e che comunque ha vissuto 11 stagioni nella Lega di tutto rispetto, talvolta anche da protagonista. Andiamo al numero 2 dei miei ricordi. Si tratta di un All-Star Game di passaggio, quella del 1994 e si gioca a Minneapolis al Target Center. Di passaggio perché siamo di fronte ad una lega orfana da Michael Jordan, che era il primo ritiro avvenuto l'anno precedente, e perché malgrado in campo ci fosse praticamente tutto il Dream Team originale ancora in attività, sembrava un po' sottotono a livello di hype. In realtà ci sono una serie di temi che emergono in una partita che alla fine acquista anche un discreto valore a livello agonistico. C'è il nuovo presumibile dominatore della Lega, Shaquille O'Neal, alla sua seconda edizione dopo aver partecipato l'anno precedente come rookie. era lui il favorito al titolo di MVP alla vigilia. Ci sono poi tre giocatori del New York Knicks che rappresentano i nuovi Bad Boys del tempo ed aspiravano finalmente al titolo una volta fattosi da parte appunto MJ. Si tratta del ninja di Manhattan John Starks, del granitico spigoloso di cui abbiamo già parlato Charles Oakley e del solito Patrick Ewing, forse all'apice della sua carriera. Di contro, quasi a rinnovare la sfida ad est, ci sono anche tre giocatori dei Chicago Bulls. C'è Horace Grant, che vede finalmente riconosciuto il suo valore, c'è un clamoroso BJ Armstrong, addirittura votato in quintetto, e c'è Scottie Pippen che deve convivere con la pressione di essere l'erede designato del Jordan ritirato, colui che deve dimostrare di aver ben imparato la lezione e di poter condurre la sua squadra a quello che sarebbe un titolo clamoroso, che in realtà non arriverà. C'è anche un'altra coppia di promesse, diciamo non mantenute, così le potremmo definire. Si tratta di Kenny Anderson e Derek Coleman, al tempo speranze dei New Jersey Nets, rimaste tali. Ad ovest, una coppia di centri da Hall of Fame come David Robinson e Hakeem Olajuwon, tra i migliori in campo nella partita, un John Stockton da doppia doppia con 10 assist e 13 punti e la prima presenza in carriera in All-Star Game per giocatori come Gary Payton e Latrell Sprewell. La partita, a rivederla, si lascia veramente guardare. A tratti l'agonismo è anche più che presente, soprattutto nella rimonta tentata dall'Ovest, disintegrata nei minuti finali dall'Est di uno Scottie Pippen finalmente primo violino della Lega, finalmente anche MVP dell'All-Star Game con 29 punti e 11 rimbalzi. Il tema del match però è quando inizia a giocare Shaquille O'Neal. A rivedere la partita, il povero Shaq è vittima di quella che potremmo definire un'autentica cordellina. Sbaglia tanto, sbaglia spesso, ma soprattutto è l'obiettivo di ogni difensore avversario. Ogni volta che prova a tirare, tutti gli avversari fanno di tutto per stopparlo, soprattutto in avvio di partita, e ce n'è almeno una di stoppate clamorosissima di Sean Kemp, che potrete andare a rivedervi ovviamente negli highlights se cercate su YouTube o se andate nel nostro blog medium.com/NBA Week. Partita da incubo comunque per Shaquille O'Neal, che ancora non era The Diesel, che chiuderà con un pessimo 2 su 12 dal campo e un 4 su 11 dalla lunetta. Prende però 10 rimbalzi, ma a tratti l'accanimento contro di lui è quasi comico e quasi ricorda il famoso All-Star Game di Jordan, quando tutto l'establishment della Lega con Isaiah Thomas e Magic Johnson in testa si misero d'accordo per metterlo in difficoltà, o almeno così si narra ad oggi. A partita quasi conclusa però, nel momento in cui l'Est praticamente la chiude, un solo ma sufficiente guizzo di Shaq serve per illuminare la notte di Minneapolis e rimanere l'azione della partita, quella che si ricorda ancora oggi. Pippen gli lancia un lob non facilissimo da trasformare ma chirurgico di precisione. Shaq lo aggancia con una mano, scarica violentemente tutta la sua rabbia sul canestro e sul povero Hakeem Olajuwon, che prova ad opporsi invano e che comunque avrà modo di prendersi la rivincita in finale NBA l'anno seguente. Quest'azione viene accolta come il suggello definitivo, come l'highlights che tutti stavano aspettando, come un'assoluta e totale liberazione per anche il povero piccolo Shaq, che alla fine ce l'ha fatta ritagliarsi seppur una piccola azione in quella che sarebbe dovuta essere la sua All-Star Game, ma che non fu per questa serie di ragioni che vi abbiamo appena raccontato. Proseguiamo rapidamente, la più bella All-Star Game a mio avviso, quindi il numero uno della mia classifica di sempre, quantomeno tra quelle che ho vissuto, è quella del 2001 a Washington. Altro momento catartico per la Lega. Jordan si è di nuovo ritirato e siamo nel 1998. L'anno dopo, il 1999, l'All-Star Game non si disputa a causa del lockout, che propone una stagione dimezzata, piuttosto sottotono e abbastanza deludente. L'edizione poi del 2000 passa principalmente alla storia per l'autentico showcase di Vince Carter nella gara delle schiacciate. Si giunge così a questo weekend ancora una volta con una Lega che si interroga sul suo potenziale di appeal e di marketing, con la cosiddetta generazione X finalmente a potere, orfana di un MJ che per la verità sarebbe poi rientrato anche in questo caso l'anno seguente, e con tanta voglia di mostrare al mondo che l'NBA e il suo show non è diventato così brutto e primo di interesse come qualcuno dice. Nei roster della partita della domenica resiste anche qualche senatore legato al passato, come i Dream Teamer originali ad Ovest Malone e David Robinson, ma il palcoscenico è tutto per il rivoluzionario frontcourt dell'Ovest, con Garnett, Weber e Duncan a scambiarsi ruoli e a correre per tutta la lunghezza del campo, ispirati dal solito originale Jason Kidd e da Kobe Bryant. Dall'altra parte il coach è Larry Brown dei Philadelphia 76ers, e dietro al suo Allen Iverson ci sono una serie di ragazzi terribili e piuttosto orgogliosi da voler provare a vincere a tutti i costi. Mi riferisco a giocatori come Stephon Marbury, Vince Carter e Latrell Sprewell, che per la verità tanto ragazzo non era, ma era comunque in fase, diciamo, di terza giovinezza. La particolarità di questa partita, oltre al finale, è sicuramente l'incontro tra Dikembe Mutombo, che in quel momento era il centro di Atlanta, e la coppia di Philadelphia, Allen Iverson in campo e coach Brown. Mutombo prende la bellezza di 22 rimbalzi ed è l'asse portante di un'incredibile ed entusiasmante rimonta dell'Est nell'ultimo quarto, guidata dal cuore di Allen Iverson. Probabilmente si accende più di una lucina nella testa del coach dei Sixers e del GM Pat Croce, tanto che una manciata di ore più tardi Mutombo diventerà il centro dei Philadelphia 76ers, conducendoli insieme allo stesso Iverson al titolo di conference e alla finale NBA persa contro i Lakers di Shaq, Kobe e Phil Jackson a giugno seguente. La rimonta dell'Est, dicevamo, qualcosa di entusiasmante guidata dal più piccolo in campo, che dall'altra parte incontra di nuovo, come era accaduto nel rookie game di qualche anno prima a Cleveland, di cui abbiamo parlato in una rimembranza precedente, l'orgoglio di Kobe Bryant, che non ci sta assolutamente a perdere. Ma l'Est di Coach Brown può contare in Coney Island Finest, al secolo Stephon Marbury, che quando tutto sembra sul punto di morire inventa due triple, una più incredibile dell'altra, in un finalone in volata. L'ultima azione tocca all'Ovest sotto di uno. Bryant fa il Jordan che non ti aspetti, attira su di sé il raddoppio, scarica fintando il tiro, la palla arriva a Tim Duncan che viene però stoppato da Vince Carter, completamente calato nella parte. Vittorione e rimonta per l'Est in un quarto periodo tirato, agonistico, godibile come forse mai si è ripetuto, come probabilmente vorremmo sempre vedere una partita di esibizione del genere. Tutto quello che oggi purtroppo non ritroviamo nella partita delle stelle è divenuto oramai un'appendice della gara delle schiacciate, dove il difensore spesso si sposta e lascia passare il giocatore avversario sperando magari un'apertura su di sé rapida a campo aperto. Tutto troppo finto, tutto troppo brutto. Per la cronaca comunque, l'MVP del 2001 fu Allen Iverson, ovviamente eroe e ispiratore della rimonta, che chiuse con 25 punti. Staremo a vedere in questo fine settimana quello che succederà nel 2017, augurandoci magari una partita con un finale simile a quello appunto di Washington 2001, sperando forse in qualcosa di storico, anche se non c'è un ultimo All-Star Game per qualcuno come l'anno scorso fu quella per Kobe Bryant, perché possa avere lo stesso appeal dell'ultimo All-Star Game di Magic Johnson, che era per la verità già ritirato. Magari una partita come quella appunto del 94 in Minneapolis, una lega in fase di cambiamento come stiamo visualizzando, che magari può trovare nel weekend delle stelle, nella vetrina, un modo per farsi vedere ancora più carica di appeal di quanto già non ne abbia. Dal nostro punto di vista rinnovo tutti i soliti appuntamenti: tutti i giovedì alle 21:30 in streaming su Radio Big World, la trasmissione che state ascoltando, o quella della prossima settimana ovviamente, a partire dalla mattina seguente nel SoundCloud di Radio Big World. Potete scaricare oppure riascoltare la trasmissione in podcast, potete farlo su YouTube nel canale di Belli 13, potete farlo collegandovi al nostro blog www.medium.com/NBA Week, dove tutti i venerdì mattina verranno postati i link per riascoltare la trasmissione e i link ai video YouTube per poter rivedere quello di cui abbiamo parlato. In questo caso, vi anticipo, ci saranno ovviamente link per poter rivedere interamente le tre partite di All-Star Game di cui ho parlato e vi ho provato a raccontare. Grazie a tutti per l'ascolto ancora una volta, ci sentiamo la settimana prossima con NBA Week.